nel silenzio dei miei pensieri ascolto sempre la tua voce e mi sento trasportare in un mondo che non ho più con te. Ma che cosa posso fare? Dimmelo tu. Questo tempo che mi rimane mi sfugge sempre più. Ed io t'amo come non ho amato mai. Ed io t'amo come non ho amato mai. Ogni giorno guardo il mondo e mi accorgo che non sono solo, ma ho tanta malinconia in questo mondo fatto di vuoto senza te. Ma che cosa posso fare? Dimmelo tu. Questo tempo che mi rimane mi sfugge sempre più. Ed io t'amo.